che piange davanti alle telecamere, spalanca le braccia, è un caso, una combinazione, non volevo, lo giuro, adesso che penserà la gente? Ve lo dico io, ah, proprio lo zio lo doveva trovare, ecco cosa penserà la gente. E in effetti, dice Goffredo Buccini, si concentra su questo ritrovamento abbastanza misterioso, cioè di questo cellulare, è andato a bruciare delle foglie, lo zio ha fatto delle pile di foglie, le ha bruciate, poi si è dimenticato che aveva lasciato lì un cacciavite, è tornato e ha trovato sotto le foglie bruciate questo cellulare che a quel punto era bruciato. E in caserma volevano sapere come mai non l'avevo visto prima, mi chiedevano, scusi, lei non vede le foglie mentre le ammucchia? E io a spiegare come funzionano queste macchine che ammucchiano le foglie tutte insieme, cosa vuoi vedere là in mezzo? Beh, certo, c'è questo nuovo giallo, il giallo del cellulare trovato dallo zio per la scomparsa di questa ragazza Sara di Avetrana. Ci fermiamo qui. Votate il sondaggio sulla politica, ci troviamo dopo il GR. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.22. Il protagonista della nostra intervista è oggi il sindaco di Terzigno, in provincia di Napoli, Domenico Auricchio. Sindaco, buongiorno. Senta, oggi tra l'altro è lutto cittadino a Terzigno e in altri comuni, altri tre comuni dove si vuole aprire la discarica. Lei è vero che ieri ha incontrato a Roma Berlusconi? Sì, sì, ieri è stato incontrato dopo il voto di fiducia alla Camera, a Palazzo Grazioso sono stato ricevuto da Silvio Berlusconi. E lei ieri in serata ha detto Berlusconi mi ha assicurato che non si aprirà la discarica, è vero? Sì. Cioè perché è una notiziona, come si suol dire, ci può ribadire com'è andata? Che gli ha detto Berlusconi? Il problema è che Berlusconi ha capito il problema, ha capito la cosa, che lui al momento ha chiamato anche il dottor Bertolaso, che lui ha curato la protezione civile fino a 5-6 mesi fa. Sì, sì, certo, conosciamo. Ha chiamato il dottor Bertolaso e ha detto che lui la prossima settimana, prima della luce, verrà a Terzigno, verrà a vedere personalmente la discarica, perché non è possibile tenere la discarica in atto, quella là che c'è, la discarica Sani, in queste condizioni che la gente non riesce a vivere con questo odore brutto. E trova la soluzione per risolvere il problema che nel parco di mettere la seconda discarica non sarà fatta. Non sa, cioè ha detto, le assicuro sindaco, quella discarica seconda non ci sarà. E verrà a fare un sopralluogo la prossima settimana e lui personalmente verrà a Terzigno. Però le ha assicurato anche questo, cioè che non ci sarà la seconda discarica. La seconda discarica non... Non verrà fatta, non verrà fatta. E quindi, ma perché continuano gli scontri? Guardi che ancora l'ANSA dice, ieri tensioni, scontri, qualcuno incappucciato ha lanciato un ordigno rudimentale contro un camion della Melito Multiservizi. Che lei come giudica questi episodi? Non siamo d'accordo, non ci sentiamo e diciamo con un forte che queste cose si manifesta civilmente, si chiede civilmente, vuol dire che anche l'esasperazione delle persone, delle cose, perché in questo momento sono proprio le persone, quello là che è il fatto proprio importante, che sono proprio le persone, il popolo che manifesta, che sta là, perché veramente non si può vivere con una discarica all'interno di un parco e con un odore che non si riesce a... Ma tanto questa non ci sarà più, no? Mi sembra di capire, Berlusconi vi ha detto che non ci sarà più. Come? Berlusconi non vi ha assicurato che non ci sarà questa discarica. Sì, però deve mettere anche, perché non è possibile rimanere in questo modo, rimanere anche con questa discarica agli altri che vengono a scaricare questi rifiuti e c'è una puzza che non si può più. Ah, lei dice, cioè la seconda non ci sarà, ma anche con quella che c'è già. Anche questa vorresti. Se deve reggere altri 4-5 mesi, altri 4 mesi, come fino a questo momento il popolo ha mantenuto, però non è possibile che un popolo può vivere così, che giustamente ci sono tanti bambini, tante persone che veramente si sta male, veramente. No, sindaco, io penso che lo Stato italiano avrà aveva anche da pagare parecchi soldi con denunce da parte dei cittadini. Che, in che senso? Cioè chiedete anche dei soldi di risarcimento? Vabbè, la gente non sta bene, in questo, voglio dire, se in questo momento si porta avanti una discarica che non è possibile portare, perché anche una discarica, anche fatta una discarica come loro dicevano da parte del commissariato, che non doveva avere, non doveva essere proprio, non doveva, come non si doveva notare. Sì, lei dice non doveva esserci, invece è molto invasiva. Le chiedo, sindaco, quanto state a raccolta differenziata percentuale a Terzigno? Sul 42%. 42. Però con questa discarica. Dati veri o taroccati? Sì, no, dati veri, perché noi veniamo da un commissariamento che era stato. Però voi pensate, ma c'è una discarica sul territorio. Quando c'è tutta la gente comincia ad essere anche. Diciamo, dici che ce ne importa, tutta la gente ci deve portare l'indifferenziato, tutto nel nostro paese, e noi ma fa la differenziata dove ci costa di più fare tutto, voglio dire, penso che. Ah, lei dice noi facciamo la differenziata e poi ci buttano in discarica tutto. Il popolo di Terzigno nel primo anno dell'amministrazione Aurizio ha mantenuto che appena iniziato ha portato quasi la raccolta al 50%. Senta, sindaco, ma come l'ha trovato, mi dica, Berlusconi? Lei è andata a incontrarlo nella giornata? Sì, era il suo compleanno, ma sa che ha detto? Ho capito, ma sa che ha detto a Berlusconi? Ha detto sto passando un compleanno di merda, perché capisce che non era la giornata migliore ieri. L'unica cosa che ha detto è questa, che andiamo avanti, però lui ha detto veramente, chi me lo fa fare, fa tutto lì. Le ha detto così, chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare, insomma, penso che al momento in cui, però, quando ho preso l'impegno con gli italiani, lo porto avanti e vado avanti. Cioè, Berlusconi gli ha detto, caro sindaco, ma chi me lo fa fare di stare qui a fare il Presidente del Consiglio? Così. Giustamente, ha ragione. Lei che gli ha risposto? Come? E lei che gli ha risposto? Che deve andare avanti, perché è un personaggio che deve, è uno dei pochi che può portare avanti questa... supporto dell'Italia, non lo fanno governare sempre con le solite cose, però in questo momento è uno che se non teneva questa fibbiatura ed era una persona che il popolo, perché lui poi viene qualcosa che ai contrari all'interno del Parlamento, però tiene il popolo che sta dalla sua parte. Vabbè, sindaco, la ringrazio. Allora, settimana prossima, oggi lutto cittadino a Terzigno, settimana prossima invece arriverà Berlusconi, come le ha assicurato. La ringrazio per essere stato con noi, Domenica Auricchio, sindaco di Terzigno, dove sono giorni di tensione per la nuova discarica che però pare non si aprirà, così ha detto Berlusconi al nostro sindaco ieri sera. Ci fermiamo, noi parliamo sempre di Berlusconi, di politica. Nel nostro sondaggio vi chiediamo, il governo secondo voi è più forte dopo il discorso di ieri e la fiducia? Radio24.it per votare, oppure 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo. 24 mattino. Alle 8:36 minuti, allora parliamo di politica nel nostro sondaggio di oggi dopo il discorso di Berlusconi e la fiducia incassata ieri. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi chiediamo molto direttamente, secondo voi dopo la fiducia il governo ora è più forte oppure no? E devo dire che però la stanno prevalendo molto i no all'82%, confermando un po' quello che, se prendete qualsiasi quotidiano di centrodestra, di centrosinistra, generalista, oggi troverete, io li ho letti dalla segna stampa, commenti quasi unanimi a dire sì, la fiducia c'è stata, ci sono stati i 342 voti, e uno potrebbe dire beh, ma allora il discorso è finito. La questione è che su questi 342 voti ci sono anche 31 sì dei finiani e 4 che hanno votato il Movimento per l'Autonomia di Lombardo, voti che secondo i rumors politici non è che è detto che in futuro possano essere così garantiti. Allora, togliendo eventualmente questi 35 voti, si ascende a 307 e la maggioranza è a 309. E allora su questo ragioniamo con l'onorevole Osvaldo Napoli del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buona giornata. Saluto anche l'onorevole Leo Luca Orlando dell'Italia dei Valori, portavoce. Buongiorno Orlando. Buongiorno. Onorevole Napoli, tra tutti i titoli quello che mi ha più colpito è della stampa: ha vinto eppure ha perso. Secondo lei è impietoso o c'è un fondo di verità? Con estrema obiettività c'è un fondo di verità. Aggiungo anche però che la stessa stampa, se lei va a leggere l'articolo di Geremica, dice che alla fine però non ci sono nemmeno alternative in termini di governo, in termini di prospettiva. Quindi la verità è che dobbiamo rivedere il quadro generale. Non vi sono dubbi che questa votazione, come dire, chiarisce che è una situazione estremamente delicata. Quindi dovremo, come dire, il mio problema, ma non il mio, il nostro. O c'è un governo fortemente stabile, un governo episodico non interessa a nessuno. Quindi io credo che sia questa l'analisi che bisogna fare oggi. Aggiungo anche che la situazione verificatasi ieri, a mio giudizio, è una situazione sotto un certo aspetto anormale. Cioè? Che senso? Ma devo dire anche un altro, nessuno ne ha parlato oggi. Io ieri ho visto una contraddizione nel comportamento della Presidenza della Camera estremamente anomalo. Attenzione, io non mi metto a parlare di case, questo e quest'altro. Ieri il Presidente, della che non mi interessa, sì, la politica è un'altra cosa. Che ha fatto Fini ieri? No, ma chiarisco. Allora, il Presidente della Camera ieri, finito l'inter, al di là dell'atteggiamento mentre parlava il Presidente Berlusconi, che ci sta o non ci sta. Il Presidente, cioè, che ha fatto? Scusi, no, l'atteggiamento in che senso? Io ho letto i giornali anche, ho visto, che faceva sorriso, il resto... nell'intervento della sua parte, cioè, ma al di là di questo posso andare avanti in questo senso. Finito l'incontro, finito il dibattito, bene, si riunisce la corrente del proprio, riunisce il proprio partito. Finito quello, afferma che fa un nuovo partito. Cioè, voglio dire, arriviamo, cioè, finito oltretutto questo, fa le dichiarazioni politiche sul discorso che il Presidente del Consiglio ha fatto. Cioè, le dice a un leader di partito o un Presidente della Camera? Attenzione, io non chiedo nemmeno dimissione, dico che il Presidente della Camera dovrebbe fare a questo punto, da quando formerà il nuovo partito, una profonda riflessione se la sua posizione di Presidente della Camera è congeniale con invece il leader di un partito che, ripeto, ieri è stata una contraddizione notevole. Quindi poi aggiungo che davanti alle dichiarazioni di Briguglio, ma dello stesso Fini, dove dice una nostra vittoria politica, Briguglio che dice come abbiamo noi la golden share del governo, è ovvio che con dichiarazioni di questo genere non si fa, che le elezioni politiche sono alle porte. Sono alle porte, ecco. Qualcuno dice a marzo. Allora, onorevole Orlando, chiedo anche a lei, l'Italia dei Valori, vabbè, è una forza politica che ha detto da tempo, dice... è tutta finita la legislatura, si va a votare. Voi, di fronte a questo sì di fiducia, la vedete positivamente perché in fondo è un sì fittizio? Ma io credo che ieri si sia fatta un'operazione verità, nel senso che se qualcuno volesse trasmettere l'immagine della situazione politica italiana dovrebbe seguire, come se fosse un film documentario, la seduta di ieri a Montecitorio. È un film documentario di una situazione politica con tutte le sue contraddizioni, ma anche di un declino. Intanto con alcune considerazioni. La fiducia che dovrebbe essere, almeno così la Costituzione vorrebbe che fosse, la fiducia col suo voto palese, dovrebbe servire a consentire al Parlamento di controllare il governo, viene utilizzata da questo governo, siamo alla 38ª volta che viene posta la questione di fiducia, tutto al contrario, per consentire al governo di controllare il Parlamento. E il controllo che il governo ha fatto col voto palese dei singoli parlamentari ha impietosamente dimostrato la crisi e il declino di questa maggioranza. La crisi e il declino di questa maggioranza, che l'onorevole Napoli non può certamente negare, non ha negato, e quindi, diciamo, da questo punto di vista non c'è materia di discussione. Secondo passaggio, noi come Italia dei Valori abbiamo sempre affermato che, a nostro avviso, e questo lo affermiamo da quando è iniziata questa legislatura, questo governo ha i tratti di un progetto di eversione della Costituzione, non soltanto per l'uso improprio della fiducia, per le cose che io prima dicevo, ma perché sostanzialmente si mira ad trasformare la Costituzione senza cambiarne le norme. Addirittura, ma le chiedo, noi, Orlando, a questo proposito, no, perché lei dice versione della Costituzione, a questo proposito le voglio chiedere quello che ha detto ieri Di Pietro, e lo voglio dire, che sta facendo discutere molto, cioè il leader del suo partito Di Pietro ha detto che Berlusconi è uno stupratore della democrazia, che dopo aver fatto lo stupro si è fatto le leggi per non rispondere di stupro. È alla testa della piovra politica che in questi 20 anni si è appropriata di istituzioni in modo antidemocratico per suoi interessi personali e dei suoi complici della setta massonica deviata di cui fa parte. Ecco, facciamo, cioè lei sottoscrive queste parole? Ma assolutamente sì, per una ragione. Per una ragione molto semplice. E qui la differenza fra Italia dei Valori e altre forze politiche, o almeno quella che era la differenza, perché il tempo sta portando tutti sulle posizioni che noi sosteniamo da tempo. Qual è la nostra posizione? Noi tutti in fondo raffiguriamo lo stesso quadro di crisi, di problemi, di cricche, di caste, di conflitti di interesse, soltanto che noi Italia dei Valori appendiamo questo quadro ad un chiodo. Noi siamo convinti che dietro c'è un progetto di eversione democratica, questa è la differenza. E quando tu parti dal presupposto che sei di fronte ad un progetto di versione democratica, è evidente. Ma magari il presupposto è sbagliato, non so. Però su questo, onorevole Napoli, dire, no? Mi sembra di dire che mentre eravamo in solitudine, quando due anni fa abbiamo cominciato a dire queste cose, e altre forze di opposizione pensavano che fosse possibile il dialogo, ieri mi sembra che sostanzialmente quel clima che le altre forze politiche pensavano e si illudevano di poter realizzare. C'è di più. Onorevole Napoli, anche risponda a Di Pietro, cioè le parole. No, ascolti, io rabbrividisco e devo dire che mi stupisco di un uomo istituzionale, ha avuto incarichi istituzionali come Orlando, che possa dire che Di Pietro ieri le cose che ha detto possono essere vere. Io devo dire che già quanto afferma adesso Orlando, eversione costituzionale, significa che mette in gioco il presidente Napolitano, che dovrebbe allora intervenire quale garante della Costituzione a difesa di quella Costituzione. Io faccio una domanda, qualora è una critica anche Napolitano da parte di Orlando e di Di Pietro, perché se il garante della Costituzione è il presidente della Repubblica, il fatto che non intervenga è un fatto estremamente grave, secondo Orlando e secondo Vediamo, Orlando, lei vuole criticare. Aspetti, però voglio finire, mi scusi, perché aggiungo quello che Di Pietro ha ieri affermato. È ovvio che Di Pietro ha bisogno di essere un estremista per eccellenza e di superare persino Grillo, perché sennò perde voti in quell'arco della politica. Ma quello che ha dichiarato ieri Di Pietro è di una gravità enorme, mai successo all'interno del Parlamento italiano dal dopoguerra ad oggi. Ed aggiungo, Barba, il presidente della Camera avrebbe dovuto prendere, al di là dei richiami, ma avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti estremamente forti. Lì c'è Berlusconi che si è girato. Di Pietro, mi scusi Giannino, più gravi rispetto a quelle che aveva fatto Barbato, che aveva avuto 4 giorni di sospensione. Lei è straordinario, Napoli, la fermo. Tra l'altro Giannino arriva tra un quarto d'ora, ma insomma è già pronto, l'ho visto arrivare ed è qui. Se vuole glielo chiamo, anzi chiamiamo in onda anche Oscar Giannino, lo facciamo entrare 10 minuti prima. E lo dico alla nostra Antonella Migliaccio, vai a chiamarlo, che così entra Oscar Giannino, facciamo parlare con l'onorevole Napoli. No, andiamo alle informazioni sul traffico, poi ripartiamo dall'onorevole Orlando, perché l'accusa è questa. Allora cos'è? State criticando Napolitano che non interviene se c'è un progetto di eversione costituzionale? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, evocato dal nostro onorevole Napoli del Popolo della Libertà, eccolo qua, Oscar Giannino. Ecco. Eccoci qua, ha visto onorevole Napoli, basta chiamarlo e Giannino compare. Però, prima vorrei chiedere all'onorevole Orlando, perché Oscar, qui si sta parlando di questa cosa. L'onorevole Orlando dice: è in atto un processo di eversione della Costituzione. E dunque l'onorevole Napoli dice: cos'è, una critica a Napolitano che non interviene a questo punto? L'Italia dei Valori cosa fa? Tira per la giacchetta il capo dello Stato, onorevole Orlando? Ma rispondo alle due domande con due risposte. La prima, eversione del quadro costituzionale. Costantino Mortati, un padre costituente, un illustre costituzionalista, ammoniva dicendo: noi abbiamo scritto la Costituzione formale, ma attenti, perché a volte nei sistemi politici la Costituzione è materiale, non quella che si scrive ma quella che si legge, non quella che è prevista ma quella che si realizza, può contrastare e modificare quella formale. Noi riteniamo che oggi le leggi di persona, i conflitti di interesse, i proclami, i comportamenti di questo governo hanno realizzato una Costituzione materiale che è diversa da quella formale scritta dai costituenti. E rispondo così alla prima domanda. La seconda che criticare il capo dello Stato. Noi abbiamo un bisogno enorme di controllo, noi abbiamo un bisogno enorme che il capo dello Stato possa svolgere serenamente la propria funzione senza essere tirato per la giacchetta neanche dall'onorevole Napoli, perché in questo momento il disprezzo per la Costituzione si manifesta attraverso il fastidio per chi controlla. Il Presidente della Repubblica controlla, va zittito. L'Europa controlla, dà fastidio. Il Parlamento controlla, va mortificato. L'opposizione controlla, va disarticolata anche con l'uso improprio di servizi deviati e va comunque delegittimata. La magistratura controlla, va mortificata, intimorita, intimidita. Però noi scusi, cioè, siete voi che dicono i sistemi di controllo. Ma se lei dice che è in atto un processo di eversione della Costituzione, allora l'onorevole Napoli vi dice: sta... è un invito a tutti gli organi di controllo a fare serenamente a controllare me. Allora, io vorrei coinvolgere a questo punto Oscar Giannino. Oscar, sai quanti ci scrivono i soliti malpensanti? Però abbiamo due esponenti politici, vorrei anche il tuo parere a dire: ma certo che non si vota adesso e si voterà magari a marzo. Non è maturata la pensione. Ovviamente i nostri parlamentari ci diranno che non è vero, però la serie storica dimostra che due anni, sei mesi e un giorno di legislatura è la pensione. Cioè, onorevole Napoli, le chiedo scusa perché devo scappare e voglio rispondere due cose. Non è vero la pensione, finitela di dare del qualunquismo in retto. Il regolamento della Camera è cambiato. I parlamentari prendono il vitalizio in base al periodo che fanno, quindi non più i 2 anni e mezzo. Quindi non c'è più questa cosa. Quindi no, ma vedi, quindi vi prego, per piacere, non diciamo più queste cose, che diventa anche nei confronti di chi ci qualunquisti. Un qualunquismo. Secondo, finisco perché devo scappare, io vi chiedo molte scuse di questo. Ascolti, Orlando conferma addirittura di più rispetto a quello che io dico, Napolitano deve avere la serenità di controllare. Io le faccio una domanda: ma fino ad oggi Napolitano ha controllato gli atti, li ha controfirmati? Se è stato violentato nel fatto di aver firmato degli atti che il Parlamento o il governo, adesso in linea generale, ha fatto? Quindi continuano a tenere un atteggiamento di violenza nei confronti del Presidente della Repubblica. Napolitano si è comportato correttamente sempre, non ha bisogno di essere violentato. Gli atti che firma li firma perché è convinto di firmarli. Quindi mi dispiace, l'Italia dei Valori è oggi un partito, è un pastaran dell'eccesso, perché, ripeto, ha dei problemi politici di raggiungere quei consensi che sta perdendo con l'estremità che è rappresentata oggi. Partito di pastaran. Va bene, se si deve lasciare molto. La ringrazio, onorevole Napoli. Sentiamo qualche ascoltatore, tanto siamo ancora 3 minuti e concludiamo per dar la linea poi al nostro Oscar Giannino. Antonello da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire, ieri ho sentito tutto il discorso del nostro Premier. Sì, sì. È impostato tutto sulle riforme, sui buoni propositi, sui finanziamenti per le opere pubbliche. Ma che faccia tutte queste cose che deve fare? Ma perché non le fa? Ha paura che i fini anni, quando c'è il primo provvedimento o il primo... sulla legge, sulla giustizia, che c'è qualcosa, gli venga un colpo di tosse. Cioè, quello che voglio dire è che faccia quello che ha detto, tanto ormai siamo a sti livelli qua, che faccia quello che ha promesso di fare ieri, solo un discorso pieno di buoni propositi, che le faccia. Va bene, grazie Antonello. Io vorrei, Oscar, poi calarti un attimo nella parte dell'editorialista, quale anche sei, il commentatore della politica, sopraffino quale sei. Insomma, qua io non ho trovato un giornale, dal Manifesto a Il Giornale, al Libero, all'Unità, alla Stampa, al Corriere, al Sole, a tutti, a dire che non si vota. Cioè, la tendenza è proprio quella, è la fiducia, ma è abbastanza scontato che, e quindi sarà così, no? Sarà così, perché è un po' difficile che tutti sbagli. Che tutti sbagliano, insomma. L'errore politico di aver consegnato ciò da cui dipende la maggioranza nella formazione di nuovi gruppi e nuovo partito che nella maggioranza non c'era, e di chi l'ha compiuto. Il suo nome si chiama Silvio Berlusconi. Ah, però, l'onorevole Orlando sarà d'accordo con te a questo punto. Oltre i numeri c'è anche una situazione del paese, il radioascoltatore lo ha evidenziato. Noi siamo in una condizione in Italia in cui sta prevalendo la precarietà, ma non la precarietà dei lavoratori, perché per esempio abbiamo in questo momento una scuola che è precaria, piena di precari, abbiamo precarie famiglie e disperati genitori e figli senza futuro, abbiamo precarie le imprese piene di debiti e prive di lavoratori e di commesse, precaria la cultura, i teatri vuoti, precaria la giustizia e piene le carceri di disperati, mentre invece precaria la legalità e impuniti sono potenti e prepotenti dai colletti bianchi. Abbiamo una precarietà complessiva, la nostra credibilità internazionale è precaria, mentre invece sono fiorenti gli affari della cricca in Russia, Ucraina, piuttosto che in Libia. Il federalismo che noi abbiamo votato e sostenuto, che avrebbe dovuto essere il federalismo delle responsabilità, è diventato invece un arrogante federalismo clientelare degli egoismi. La cultura democratica sta diventando precaria, mentre invece il nemico diventa il diverso. Il sistema bancario precario, garantiti invece i mafiosi e i criminali grazie agli scudi fiscali e condoni fiscali edilizi, è precaria. per ultimo e non da ultimo, è l'informazione, che è sempre più stretta tra lusinghe e veti seguiti e preceduti da minacce bavaglie. Anche un po' la politica è precaria, no? Precaria la politica, assolutamente sì, precaria la politica e stabilizzati i parlamentari nominati per grazia del principe. E comprende come c'è questa condizione oggettiva di contraddizione continua nella quale prevale un principio, drammaticamente un principio, che era un vizio meridionale, che sta diventando cultura nazionale, la cultura dell'appartenenza. Non ti viene più chiesto quando rivendichi un diritto, quando chiedi attenzione a un bisogno, chi sei, che cosa sai, che cosa sai fare, ti viene chiesto drammaticamente a chi appartieni. E questo che era un vizio siciliano e meridionale, che in tanti e da tanti è diventato un vizio di tutti. Cultura nazionale, che costruisce le caste, che costruisce i conflitti di interesse, per cui il venditore coincide col compratore, il controllore col controllato, il giudice col giudicato, il legislatore penale con l'imputato, e così posizione. Via. Io devo chiudere, ho 30 secondi, detto che l'84% dice no, il governo non è più forte di coloro che rispondono al nostro sondaggio. Chiedo scusa a Ugo da Roma, non c'è spazio, chiameremo magari una prossima puntata su un altro tema. Su questo voglio chiudere, sia onorevole Orlando, ieri Berlusconi ha inseguito Massimo Donati dell'Italia dei Valori, vorrei coinvolgere anche Oscar a dire almeno riconoscetemi questo, sto vivendo un compleanno di merda. Questo no, Oscar, su questo almeno si può dire, era il compleanno di Berlusconi, ma insomma, no. Lo so, bastava scegliersi una festa impostandola diversamente. No, onorevole Orlando, su questo almeno riconosce, dice almeno bastava ricordare non a un giorno cattivo di merda, ripeto l'espressione non mia ma di Berlusconi, un giorno di merda di compleanno. Beh, ci sono italiani che vivono ormai da anni giorni di merda. Vabbè. La ringrazio, ci fermiamo qui e do la linea, cedo la palla a Oscar Giannino, che rimane dunque qui in studio, ringraziando Antonella Migliacci in redazione, Peter Bescapè e anche Filippo Aureggio, oggi in regia, doppia regia, e quindi tutto doppio. Ho chiamato anche Oscar, caffè doppio, vado giù al bar, caffè doppio a Oscar Giannino, ci troviamo domattina.